Allora, siamo in collegamento per quanto riguarda la giornata di lotta che è cominciata questa mattina. E ci puoi fare un intanto, per chi è all'ascolto e non sa cosa è successo da stamattina fino adesso, cosa è avvenuto qui nella città di Roma? Sì, dunque, siamo nel quartiere della Garbatella. Stamattina c'era uno sfratto di una famiglia all'interno di un lotto, quindi di patrimonio Ater. E diciamo, questo sfratto è avvenuto in maniera molto violenta e aggressiva da parte delle forze dell'ordine. C'era un piccolo gruppo di compagni, insomma, andati a sostenere la famiglia, che hanno cercato di mettersi in mezzo, ma diciamo gli è sfuggita la situazione di mano alle forze dell'ordine, che hanno rotto vetri, divelto porte sbagliate, addirittura al piano sbagliato dove non c'era la persona interessata dallo sfratto, e in questo parapiglia hanno ferito anche la madre anziana della signora che abitava nell'appartamento, e è portato via tre persone, cioè un compagno del centro sociale La Strada più due parenti della famiglia sotto sfratto. A questo punto noi, una volta appunto eseguito lo sfratto, ci siamo spostati sotto al commissariato di Garbatella per capire quello che succedeva a queste tre persone, per capire se erano in stato di fermo o di arresto, e mentre stavamo lì fuori tre agenti del commissariato sono tornati di nuovo fuori riconoscendo una compagna che era presente durante la mattinata, le hanno chiesto i documenti e l'hanno strattonata violentemente dentro al commissariato. Noi l'abbiamo vista portare su a braccia per due piani di scale dentro al commissariato, strattonata e spinta, e lei è riuscita dopo mezz'ora con un verbale che diceva che non aveva voluto dare i documenti, però visibilmente provata e contusa, nel senso che ci ha riferito di essere stata schiaffeggiata violentemente in faccia, di aver ricevuto un cazzotto nello stomaco, aveva dei segni e dei lividi sulle braccia. Quindi poi anche lei è andata a farsi refertare, chiaramente dentro al commissariato negano che tutto questo sia avvenuto. In questo momento ci sono ancora i tre ragazzi dentro al commissariato che pare abbiano avuto l'arresto, quindi stanno aspettando, perché domani mattina alle 9 avranno il processo per direttissima a Piazzale Clodio e probabilmente verranno spostati questa sera a Via Genova, però in questo momento stanno ancora dentro al commissariato di Garbatella. Oh, voi avete... Contemporaneamente sì. Adesso alle 4:30 c'è la conferenza stampa in Campidoglio per raccontare quello che è successo, e noi stiamo ancora qui nel quartiere, insomma, intanto per denunciare a tutta Garbatella, al quartiere, quello che è successo, poi per vedere i tre ragazzi quando usciranno per essere spostati dove passeranno la notte fino a domani mattina. La conferenza stampa, quindi ripetiamo, in Campidoglio alle 4:30. Una prima analisi: siete riusciti a capire perché questo atteggiamento subito violento da parte delle forze dell'ordine è stato spiegato in qualche maniera? Siete riusciti a... Quello che loro dicono è che dovevano eseguire lo sfratto a tutti i costi, perché c'era già stata una sentenza del giudice che diceva che la casa doveva essere tolta. È uno sfratto emblematico, perché la famiglia che ci abita aveva pagato la buona uscita di 80.000 euro al proprietario, il quale poi proprietario gli ha fatto causa intascandosi prima di 80.000 euro e poi gli ha fatto causa per occupazione, e il magistrato ha dato vittoria a lui. Quindi è una storia veramente assurda, allucinante sotto tutti i punti di vista, perché il proprietario appunto adesso rientrerà in possesso della casa essendosi anche intascato i soldi della buona uscita, quindi proprio una storia assurda. E poi un comportamento così arrogante, violento, addirittura hanno sfondato la porta del vicino di casa sbagliandosi, quindi senza entrare direttamente nell'appartamento giusto, ma hanno sfondato quella del vicino di casa dove c'era un'altra signora anziana che si è sentita male, chiaramente, perché vedendosi entrare questi energumeni in questo modo, hanno scavalcato i cancelli ferendosi in questo modo mentre il cancello era aperto, e poi sono andati a farsi defertare loro dicendo che erano stati aggrediti, mentre se avevano delle lesioni erano quelle che si erano provocate autonomamente rompendo vetri e rompendo porte. Ma c'erano stati in precedenza problemi del genere in quartiere con questo commissariato? No, è un atteggiamento del tutto nuovo, c'è anche una nuova commissaria in questo commissariato, ma sicuramente è un atteggiamento del tutto diverso da quello che abbiamo visto anche negli anni passati, negli altri picchetti antisfratto, che comunque un quartiere popolare come quello di Garbatella vive quotidianamente il problema degli sfratti e dell'ater, quindi insomma è anche un modo nuovo di gestire la situazione. Ecco, rispetto alla situazione sfratti a Garbatella, non è l'unica situazione critica, come vi state muovendo in proposito? Guarda, noi monitoriamo tutto quello che succede, soprattutto dal punto di vista delle case e degli sfratti. Chiaramente ci sono continue richieste di solidarietà da parte degli abitanti della Garbatella, che appunto, avendo questo carattere popolare, invece è molto, molto solidale con le famiglie che vengono sfrattate, ma c'è un atteggiamento del tutto nuovo da parte almeno per questo quartiere, ecco, da parte delle forze dell'ordine. La ragazza che è stata colpita e picchiata dentro al commissariato, mentre la picchiavano gli dicevano: noi lo sappiamo che voi vi prendete i soldi dalle case che occupate e poi ve li steccate con la Digos. Cioè, questo è veramente dei livelli inauditi. Quindi comunque ci saranno problemi ulteriori di prossimi sfratti nei prossimi giorni anche. Continuiamo a monitorare la situazione, perché insomma, se il clima è cambiato, probabilmente è cambiato per una serie di sfratti che ci saranno da qui nei prossimi mesi. Ho capito. Allora rilanciamo nuovamente l'appuntamento alle 4:30 in Campidoglio per la conferenza stampa. Invece per quanto riguarda Garbatella ci sono già appuntamenti? Guarda, noi stasera faremo sicuramente un volantinaggio, megafonaggio nel quartiere verso le 7, però rilancio invece l'appuntamento di domattina alle 9 a Piazzale Clodio per sostenere i tre compagni che sono stati arrestati. Allora, ci sentiamo più tardi nel pomeriggio per nuovi aggiornamenti, va bene? Ok, va bene. A più tardi, ciao. A presto.